Avanti sul 10, chi c'è? 10, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? 10, c'è nessuno? Canale 10, avanti, chi c'è? C'è posto? Ciao già. Ehi, ciao Carlo. E allora? Non torno su. Ma oggi è silenzioso tutto. Ma io ho finito il canto, ho detto adesso accendo. E di solito alle 6:30 accendo sempre, quando finisco di cantare. Accendo, dai. E io sono qua da mezz'oretta, tre quarti d'ora massimo. Avevo acceso e niente, ho fatto qualche chiamata, nulla, non ho sentito nessuno. E buonasera a te allora Gianni. E buonasera Carlo, ci siamo noi, pochi ma buoni. E infatti qualcuno già si accoderà piano piano, e perché magari oggi è una giornata un po' così, non si capisce se piove, adesso sta piovendo, prima no, adesso ha ripreso, ho visto, mi sono girato alla finestra, e quindi magari la gente sta facendo altro. Io la sera la dedico sempre un po' al canto, dai. Se non ho altro da fare, un po' mi metto a cantare e mi passa la serata così. Cosa vuoi fare? Intanto ormai mi sono fatto tutte le amicizie anche lì, e quando non canto mi mandano i messaggi, dai vieni a cantare. Beh, se ti piace è un passatempo, è un hobby, è giusto che tu lo faccia, capito? Ognuno fa quello che, insomma, ti piace fare, giustamente, magari ti dedichi un'oretta lì, un'oretta alla radio, poi c'hai cioè, un'oretta che porti il cane, già ne hai di cose da fare, e c'hai i pappagallini da accudire, insomma. La giornata ti passa così Gianni, e io lo stesso cerco di impegnarmi tutti i giorni a fare qualcosa. Sì, certo. Avanti, non si capisce nulla. Sei uscito tutto a strappi. Io ti ho mandato a girare due barre. Stai uscendo a tratti, come ti ha detto Gianni, stai uscendo molto male. Cazzo, mia baracchina idiota. Ora. Finché non scaldano, non andrà nulla. E tu lascia l'acceso prima di entrare, così risolvi il problema, tu cosa ci vuole. Lo lasci acceso e poi entri. Mamma fa il culo! Ma si ricordano queste cose? La mamma sta! Ogni tanto non trudi, lo tira! Ma per carità, cazzo, ma a me è detto, ridetto, cazzo, no, veramente, qua! Adesso bisogna fare questo! Che se no io mi cazzo! Ecco, non perdo la pazienza. E poi alla base attacca l'altra, se vedi che non va, cosa stai a insistere? Vai, attaccane un altro. No. Adesso non penso che non lo faccia più. E boh, poi passa giù lungo. Adesso, ok. Non sta qui. No. Lo sta facendo. Allora, perché quando pulisci... Cambiamo tu, a tratti trasmette bene e poi fa le scorreggette, le pernacchie. C'è un bel rimbo da Nianto, cambia l'altro e non fa. Fa sempre, sempre così. E quello è radio che deve essere vista bene, capito, da chi la sa trattare. Ci vuole proprio una persona là, ma si dice che è morto. Ma era giovane, vero Carlo? Io non lo conoscevo di persona, ma lo nominava molto Gigi Vulcano. Sì, era giovane, avrà avuto, forse è anche più giovane di me se ti fidi, capito? Non riesco a capire nel giro di poco tempo, capito, come abbia fatto questo poveraccio. Massimiliano Bulldozer a me l'aveva dato il suo contatto. Sì, sì, sì. Me lo ricordo. Magari un infarto. Può essere pure, capito? A volte ci vuole un attimo. Qualche settimana fa è morta un'insegnante di 51 anni ad Alghero, giovane, infarto fulminante. Questa sana, dice che faceva di tutto per i ragazzi, eccetera. Un colpo è andato all'altro mondo. A volte il destino è crudele, così. E anche un insegnante di Marco è morto da poco. L'insegnante di Marco delle superiori. Purtroppo quando ti vengono sti malanni così che non ti lasciano scampo è una tragedia, capito? Perché ti becca un infarto a 90 anni, dice bene o male la vita me la son fatta, anzi colpo secco, vaffanculo, e non ho sofferto. Ma quando c'hai ancora molta vita davanti è un peccato per la persona prima di tutto, ma poi anche per i propri cari, capito? Poi certo che sì, uno non se l'aspetta di colpo, e ne sono venuta che giovani, e stava raccontando l'idraulico che il nonno praticamente è andato in pensione da poco. Praticamente si stava sdraiando, gli ho detto alla moglie, guarda che c'ho un dolore, mi sdraio 5 minuti, ma lo porti il caricabatterie del telefono, quindi mi guardo col telefono. A seguito è andata a regare il lungo e se l'ha ciappato mosca. Pensa tu, quello è roba di infarto fulminante, capito, non gli ha lasciato molto tempo e ne scampo. Dice da 6 che era andato in pensione, pochi mesi, e ha lavorato tutta la vita come idraulico loro. Dice già se l'ha fatto il mazzo, poveraccio. E poi per che cosa? Dice la vita è crudele. Ho cambiato ciccia, buona messa, va bene questo. Lusso, questo di lusso, Antò, bella chiara, la radio, Radio Super 5, il segnalone è sempre lo stesso. Questo Antò, le bevi più 4. Sì, le bevi più 4 con la 48. Una roba, va benissimo, Antò. Chiara, forte e limpida. Cappa. Ci rimetto questo e basta. Lascialo stare, non toccare. No, non toccarlo, vai là. Sempre così sei. Alle prese con Gabriele Antonio. Ancora è piccolo e quindi tocca tutto. Pazienza, ci vuole quei bambini. Già lo credo. Ci vuole pazienza e anche tanta. Mamma mia. Sparire tutti gli oggetti che potevano toccare, che potevano rompere, tutti. I pericoli, anche le fesserie, per dire le pentole quando vuole l'acqua, sempre metterle all'interno quando ci sono bambini, non si sa mai. Guarda, io per mio figlio quando era piccolo mi ero organizzato, avevo messo dei perni che bloccavano l'apertura dei pensili, eccetera. Il ciubizzino non toccava niente invece, Invece l'altra sì, piccolina, quella prendeva, toglieva tutti i tappi delle pentole, giocava, perché le femminucce sono così, capito? la lasciavamo fare, sinché erano cose che non faceva danno, capito? Si lasciava fare. Sì, anche io ce l'avevo quei così a U che si chiudevano tutti. Si chiudevano tutti i cassetti, specialmente gli sportelli dei mobili, ce l'avevo anche io. Però bisogna stare sempre con gli occhi sbarrati con i bambini, perché un attimo, io mi ricordo una volta Marco era piccolino, eravamo al mare tutti quanti insieme, amici, amiche, e stavamo parlando, però ogni tanto gli si dava l'occhiata, lui stava giocando con le formine. Allora mi alzo gli occhi e vedo questi due tipi che stavano andando a tuffarsi, e lui li ha perseguitati e si è tuffato anche lui l'acqua, ho fatto interpretare a pattuglia lo carro. Ciucucciù, che su coso? Anda tutta trudi, anda, te lo porto. Vabbè, calma, ti trovo un telefono. Scappa, no, non va bene a te, tutto canto trudiato, non va bene, solo, bisogna riguardarlo. E anche io ho miei tipi negativi con questa parecchio qui, quindi a un certo punto siamo uguali. A un certo punto. A un certo punto non va, non funziona. Però Antonio stava provando l'altro giorno, Antonio non lo faceva. Non lo faceva perché l'ha provato con lo c'ero io. Adesso ha ricominciato di nuovo. Lo fa freddo, lo fa. Ma strappi, a me ha giugato che non andava più bene. C'è qualche componente in più, c'è qualcosa che non sai. Bisogna vedere. O nei potenziometri, o nella marasucci che raccuglia, c'è qualcosa che non va. D'accordo, te l'appoggio. Io invece ho picchi negativi con questa gente. Come mi ascolti, bene? Benissimo. C'ho picchi negativi, aspetta. Due secondi. Così? Tutta la mia profiata. Allora, 1, 2, 3. Media, massima, 1, 2, 3. Già media e massima non cambiano. Ok, meglio così, era ora. Mi sono stato però, perché a me mi segna perché negativi. Fai tutti i passaggi che ti dico segnare. Allora, così sono a 5. Così, aspetta, sono a... Ahí. Media 1, 2, 3 e massima 1, 2, 3. Dovrei essere picchi positivi così. Ma è il contrario, scusa, quella massima arrivi più basso e quella, la minima arrivi 9, 10, poi 9 e poi arrivi 6. Oh, no, sapevo la verità, come sono mai accorto. Tutto sbrugliato è Furuizzo. Seguito ai passaggi. Sì, ma da me Antonello arriva forte perché siamo anche abbastanza vicini, capito? Quindi non c'era differenza. Sì, con l'apparecchio piccolo. Vabbè, niente, sì, sta facendo di lusso, adesso sei di radio più piccolino, no? Sta facendo a caccia. Carlo? Dimmi, Antone, che stavo rispondendo a un messaggio. Ho detto, come mai sta facendo con l'apparecchio normale? Hai staccato il grande? Sì, perché ho trovato giù il commutatore d'antenna. E quindi stavo collegando e poi invece ho sentito Gianni e allora ho risposto e c'era attaccato solo questo e quindi ho continuato con questo. Va bene, ok, volevo sapere solamente questo. Comunque fai lo spostamento con quella, con quella fana che ti ho dato io, così almeno sei a posto. Eia, e che quando hai le cose nuove ci stai un pochettino attento, e quindi anche perché non la conosco come radio ancora, e quindi non sto diciamo toccando niente, ho attaccato solo l'antenna e l'ho messa nel commutatore e stavo andando a collegarlo, invece poi ho risposto a Gianni, capito? E quindi adesso è rimasto scollegato. Vabbè, non c'è problema, non si preoccupare per quello, ci mancherebbe. Prendete voi che faccio lo scambio adesso a vedere se va bene il commutatore. Io non ne uso più commutatori, da quando è andato in corso il mio, mi stavo facendo impazzire, ho cambiato tutti gli spezzoni, andavo in corso, cazzo, non capivo cos'era, il commutatore della ZG che avevo appena comprato da Fusano, era difettoso. Buonasera signor Gianni, questa va a prendere uno più serio come ce l'ho io. Ciao Tony, e qual è quello che non ride, quello sia? Buonasera signor Tony. Buonasera Antonio, allora quello serio è... come ti si chiama? Allora c'è la B, la C, qua non me lo ricordo che marca è, c'era scritto dietro. E in quel tempo sarebbe prendi l'allora a B e C, e vabbè, invece c'era scritto 1, 2, 3 e eravate sicuri. No, perché quelli delle ZG non si viene a nulla, non si viene, e vanno in corto. Invece gli uno anda in corto perché in mezzo c'è la pallina, la sfera c'ha, e non può andare mai in corto perché è in alluminio anche. Sì, vabbè. Allora già ne avevo usci, quando lo cambiare apparato, svitto da uno e avvito all'altro. E qual è il problema? Allora ci ho pagato, io sono 25 euro mi l'ho pagato, ma te che io ho pagato 50, 60 no? Ho capito. Vabbè, allora riprendi. Cappa. Vedremo a nuovo anno, ma a nuovo anno, fra qualche mese. Se prendere, se prendere qualcosa di serio o se no ma qua sono indeciso cosa fare, una baracchina un po' più buono, capito? Comprati uno di quelli che si appesano a coso come quello che ho io, tale quale, se va bene, ha voglia. Sto pensando cosa comprare, capito? Sto pensando cosa comprare, sto guardando, ma un bel giocattolini qui so. Giocattolini, già ce n'è gente bella, va bene dove ce n'è. Non preoccuparti, devi solo mettere a scegliere, il discorso è quello. Mi saluto col negozio di baracchini in casa del continente. C'ha tutti i tipi di baracchini nuovi, a seconda mano, di tutti di più. Ho visto uno, l'ho visto. Un bel strano, tipo americano. Cazzo, come esce? Il cobra, quello sembra una console, quello lì è. No, ha un altro nome. State attenti cosa compareggi, state attenti, che un vedevo che bisogna butti duri in muro, arrivi e dentro è toccato. Prendendo un MLS, non il 200 ma un altro tipo, è quasi come l'MLS 900 ma deve essere il tipo superiore, con la scheda di 40 metri, lo stavano vendendo. Avanti, chi è? Buonasera. K, da dove stai modulando? Da dove parli? Da dove moduli? Ah, K, da nulli. No, qua arrivi Santiago di Tre, però ti capisco, dai. Sono in compagnia di Antonello, di Antonio, di Carlo, non so se ci sia ancora, e Vittore Squalo, dai, avanti. Capo, che antenna c'hai? Ma da macchina, ho detto. Da boomerang. Capo, ed è sul tetto? Perché qua da Rubi sta arrivando abbastanza bene, io. E sentiamo che è basso, però ti ascolto bene. Qual è il tuo nominativo? Capo, dai. Va bene, Roberto, dai, avanti, appunto se lo ascolti. Capo che l'ascolto. Salutone Roberto, appunto la Sassari. Roberto, l'hai ascoltato Antonio? Roberto? Ma tutto affuso. Roberto, mi ascolti Roberto? Antonio la Sassa diciamo. Buonasera anche a te. Pure tu non sei forte qua, Non sei forte, però arrivi. Ciao, è un genio. È un genio. Chi è che mi chiama? Genio. Va bene, allora facciamo girare la ruota, dai, avanti, torno, mettiti tu, perché se no qua succede un macello, dai, intanto lo prego. Di Rufi, io ascolto Santiago 7, radio quasi zero, proprio. Il segnale è forte, però la radio è bassa bassa. Ok, ti saluto. Sono ascolti. Ma è il contrario, la radio Santiago è 3, la radio è 4. Io arrivo subito, 5 minuti con X. Niente. Ma in FM stai uscendo. È troppo forte di microfono, sì, abbassa un po'. In AM. No, è un genio, antenna, non è A, dice roba. Bene. Ok, vai. Che cosa stanno facendo? Ci sentiamo dopo. Ciao, Franco. Ciao, Franco. Era Franco il sorso, era. Tutti buddi. Chiappa. E comunque qua già arrivava l'amico di Nurvi, Cioè, non fortissimo, ma già arrivava. Perché qua arrivava? Santiago 3. E la radio però l'ha sentito, dai, bene. Gianni, mi senti? Avanti! Ehi, a Carlo. Allora è un controllino, come sto uscendo? Santiago 7, Carlo. Con cosa stai uscendo? Con che radio? Con l'altra, col Kenwood. Ah, sei più basso di quando esci normale, bu. Non lo so, non lo so. Perché ho provato col commutatore ma non mi convince, ho staccato tutto. Perché su una radio funziona, sull'altra no. Sì, da 7 a 9. Sì, da 7 a 9. Però tu normalmente ne arrivi 9:20. Lo so, l'altro è, diciamo, in AM a più fast. Ma cosa c'hai, il 140? Come già? Cos'era un 140? Sì, sì, sì. È strano. Tu Antonio, come lo sei? Basta, allora 140 deve pompare, deve avere la radio bella potente, uno, secondo deve dare fatte, devi pompare, guarda che forse c'hai quello chiuso, controlla bene che c'è una regolazione, cioè, sicuramente ci di chiusi perché non è possibile, che sarà devi pompare, deve andare. Allora, Carlo, guarda che c'hai dei cursori, power, il volume, eccetera. Prova a far andare, però un pelino li devi fare andare, con l'unghia li devi muovere. Un pelino per vedere se aumenta. No, aspetta, se te lo dico io, perché io ce l'ho. Devi portare VR a metà, poi il mic a metà, mic lì al massimo, e l'altro di giù a zero. Non ho capito, dottore, cosa mi ha detto. Lo sento, dottore, mi ha detto devo toccare, però poi non l'ho capito, perché c'ho anche QRM molto alto. Carlo, intervengo io, scusate un attimo. Il segnale si sposta da 4 a 5 a 7, non capisco. Hai qualche cosa nel commutatore, controlla anche il PL. Scusa. scusate, intervengo io un attimo. Ciao Robert, vai. Allora, guarda, prima di tutto c'è il processore inserito. Allora, il processore dove lo trovo? PROC, c'è scritto PROC. Sì, inserito. Inserito, gli slider dove c'è la potenza, dove ce l'hai, in che posizione ce l'hai, quelli che sono sul lato destro. Allora, quello è a metà. È il livello microfonico, ma non è che stai parlando troppo vicino al microfono, stai saturando, non ti sento bene. Allora, sì, perché come mi sono abbassato per vedere com'era il cursore del power, è a metà. Sollevalo verso manetta. Adesso è tutto quanto a manetta. Non è cambiato niente, qua sei 9 più 25 ma non è il tuo segnale. Dimmi una cosa, l'alimentatore com'è? Minimo qua mi devo arrivare a 30. Cioè, non con 20 mi devo arrivare, sono pieno. Sicuramente c'è, cioè, i vasi chiusi. Ma dimmi una cosa, è rosso, cosa ti sta segnando? Sei a posto di rosso? Sì, sì, allora, è rosso a posto. Non sta dando potenza con la radio, sei 9,20, quasi 9,25, però tu arrivavi 9,40 normale, senza niente. C'è qualcosa che non quadra, a livello microfonico come sei? Allora, il microfono è il suo palmare, quello originale, però siccome stavo provando, sto pensando il commutatore all'antenna, magari adesso cambio un po' e vedo un po' com'è, a volte non si sia mollato qualcosa dietro. Aspetta, Carlo. Mettilo dietro, diretto, togli tutto quanto, l'antenna diretta metti. Metti antenna diretta. Dottore, come commutato gli danno problemi sempre. Carlo, metti antenna diretta. Adesso come va? Prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio. Adesso siete un 9 più 40. Ok, allora era quello. Allora, buttacelo via, metti l'antenna diretta e non sbagli. Beh, appena detto l'avevo io. Io l'ho buttato via, appena comprato, mi ha fatto impazzire Robè. Ho cambiato tutti gli spessori, tutto quanto, niente da fare. Ed era il commutatore che era in corso. Oh, proseguite, scusatemi l'intromissione. Oh, qua niente, Robè. Allora, già si indugia, ma sicuramente quel commutatore è molto strano, cavolo. Sicuramente ha qualcosa. Ehi, va bene, comunque, grazie, Robè, non ti preoccupare. Ci sentiamo lì dopo, sto facendo cosa al computer. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Metti un MC60 lì e vai alla grande, Carlo. Sì, ma già va anche il microfono questo, capito? È che sicuramente quel cavolo di commutatore, adesso ho staccato tutto, ho messo il cavo diretto alla radio, capito? E già sta andando bene. Cos'è? Dettagli il commutatore. Guarda, adesso non te lo so dire. A fusare le prese. No, è roba che c'ho da parecchio, CX201U. No, comunque io l'ho preso da Fusaro, il commutatore, appena messo, tutte le radio andavano male, casse stazionali a mano, tutto quanto fondo scala, le lancette degli apparecchi erano tutte fondo scala. E non capivo cosa era, pensavo che fossero gli spezzoni, ho fatto spezzoni, sono buttato tutta la sera controllando e facendo. E poi era quello, era il commutatore dell'antenna, si era giunto Marunuco. E la stessa fine farà questo, l'avevi detto prima che ti aveva fatto impazzire e questo stava facendo impazzire anche a me, adesso ho staccato tutto e lo butto via. Lo buttare, lascialo. Io ne ho avuto 3, 140, quindi già uso una tesoro. 140 deve uscire bene di radio, forte di segnale. Quanti fatti ti sta dando adesso? Allora, di suo è a 10 e poi quando parlo mi va a 50. Sì, è così, dai. È così. Va bene così. E poi lasciamo scaldare anche. Sì, Tore, adesso ti ho sentito, ma era prima che avevo collegato quel commutatore, non funzionava quello, non faceva passare bene il segnale e allora l'ho tolto, adesso ho attaccato direttamente alla radio e già sta andando bene. Ma sei sicuro che è commutato giusto? Sono sicuro che hai girato giusto, sì. Eia, c'ha posizione A e B, quindi su una radio andava, sull'altra no. Sono quelli della ZG che non servono, non servono a nulla, si ragiona un po' del muro. Guarda, io ce l'ho, funziona. Sì, Tore, hai ragione, evidentemente è quello da buttare, dai, ne procurerò uno buono. E quelli dei radioamatori io mi sono preso, ce n'ho due, ce ne sono tutti e due di quelli dei radioamatori, sono i più buoni. Ne ho pagate un pochino, ma io ce ne ho tutti. Chiedi a Claudio che lui ti so dare un consiglio, caro, perché lui li usa quelli lì. Infatti sì, ne procuro uno buono, tanto non è che questo ce l'avevo e prima funzionava, evidentemente si è o ha preso qualche colpo, è caduto, non lo so, però non mi interessa, lo butto via, lo metto da parte, non voglio che mi rovini le radio, ne prendo, ne procuro chiedendo a Claudio o chi altro, insomma, uno buono, buonanotte. Entra qua, monsieur, je vais écouter la radio, le microphone, dai, vabbè, come l'imprenditore. Già è così, purtroppo come manda così. Ui, chiatta che andiamo. E succede, poi l'elettronica è così, perdi la testa per una cazzata, non riesci a capire cosa è. A volte di mandare giù un capo la fesseria. Vanno a scioccarsi magari. Vedo come sente che è paghissimo che si bruciano. Quelli amatoriali, quelli più buoni, no, non succede. Non succede perché sono molto migliori, capito? Quelli come li dai potenza si sciarano. Invece se tu usi i baracchini, come lo sto usando io a pochi fatti, quello non succede. Secondo me è per quello che si bruciano questi commutatori così. Probabilmente non sopportano troppi watt e quindi si bruciano, capito? Magari sono fatti questi per solo 5-10 watt massimo, capito? Va bene, pazienza, e me ne compro un altro, già se ne trovano. Ma a parte del tempo dov'era, no? Penso che c'entri, no, è caro. Perché io lo stavo usando con 5 watt tutti gli apparecchi e l'ho comprato lo ZG appena pigliato, nuovo, non è a dire che l'ho preso a seconda mano, nuovo. Allora attaccato mi faceva questo difetto. Cosa ti è successo, Carlo? Ciao a tutti. Ciao. Stavo usando un commutatore d'antenna, però non funziona, e quindi ho attaccato tutto, adesso ho riattaccato la radio e sta andando bene, capito? Il commutatore d'antenna di che tipo? ZG? No, è CX201U, non so che marca sia, non ho più la scatola. Ma celeste? Come, Cla? Celeste di colore. Sì, esatto, celeste, azzurrino. Ce l'ho io quello, non funziona, cosa? Ce lo dico, non funziona. Tiene 500 watt quel commutatore, ce l'ho io, commutato, guarda. Io ho la commutazione su questa radio per la 27 e l'antenna per i 10 metri. Ed è collegato, perché non funziona. Va bene, devo controllare poi bene gli spinotti e tutto quanto, capito? Mi sono messo a farlo adesso che non si vede, quindi pazienza, dai. Per adesso rimango così con l'antenna attaccata alla radio che mi hai dato tu, e poi domani che si vede vediamo un po', anche perché mi è arrivato l'altro cavo e così mi cambio anche il cavo direttamente dall'antenna. scusatelo, senza processore. Ok, mi sono spaventato, ho detto, no, perché non sta andando lo smitter come deve andare. Sì, sicuramente c'è qualche altro problema, non è il commutatore. Tranquillo, poi decido io uguale, e problemi non mi ha mai creato. Addirittura un periodo ce l'avevo, commutavo l'ICOM con il Kenwood, e con l'ICOM c'era il passaggio dei 500-600 watt, quindi non... il commutatore è abbastanza affidabile. C'è qualcosa che non va in qualche spezzone lì allora? È positivo, penso sia qualche spezzone. Domani mi porto sul tester e controllo, o me li rifaccio nuovi. Ma tanto devo cambiare il filo dall'antenna dentro casa, capito? Che quello che ho è troppo corto, e così me lo metto più lungo, più comodo, capito? E non sto a fare mille giochi e giochini. Si conferma, scusate il ping pong, va bene, fammi sapere. Però non giocare molto con queste cose, Carlo, perché c'è sempre il rischio che fate danno alle radio. Ok, prima di collegare uno spezzone di qualsiasi tipo, che a noi, dico noi in generale, ci sembra sempre tutto a posto, abbiamo il tester, controlliamolo sempre col tester prima di metterlo in funzione, perché ne sto vedendo dei conti di chiude. È l'unico, perché è successo a me, io ho fatto un danno allucinante al 575 della ICOM. È un PL non controllato, ho messo lo spezzone, è andato in corto, stavo trasmettendo e fortunatamente è andato bene, ma ho fatto danno anche alla radio. Niente di grave, ma comunque ho fatto danno alla radio, quindi stiamo attenti a queste cose, perché i PL fanno parte della comunicazione, quindi se vanno in corto, ti mettono in corto la trasmissione, vai a pigiare il PTT, ti manda in corto, ti entra l'RF, boh, futti dalla radio. Ok, datemi 10 minuti che devo accendere la stufa, che sto rientrando adesso io. Vai Gianni. E poco fa ti ho chiamato in francese, non mi sentite? Sì, cold. No, ti ho detto, già vi contiene il microfono delle radio. Delle radio della Petitom. Infatti 10 minuti arrivo subito, se mia moglie mi dice, a cazzo, sono rientrato adesso, sono uscito alle 3 a fare una cosa ad un amico, un lavoro ad un amico, e ho fatto tardi. Ma tu te ne sei andato, ma adesso macchina automatico la stufa, aveva ragione. Dai. Ciao Antonio, anche a te. Riprendete e arrivo subito, ok? Io, dai. Riprendi Antu. Mi ha fatto dubbi, cose. Io una volta mi sono dimenticato questo microfono aperto. Puglia, ha detto, ma tutto ha già bruciato. Invece me, no, non andava più in potenza, non andava più nulla. Cazzo, che avevo l'amplificatore che era un bene. Qui c'è di fuoco. Cazzo. Tutta la notte con la porta già aperta, tipo a Falcone, poi vado a controllare, vado e non usciva perché mi ha bruciato lo spezzone, proprio bruciato. Cazzo, Anto, devi stare attento, devi ricordarti lo spezzone. Pronto col baracchino acceso, tu dammi chi sei me. Che mi avete l'abbordante, perché non è possibile. Vabbè, ma se lui avesse aperto l'abbordante e il baracchino fosse stato spento, non sarebbe successo nulla. Invece il treno dimenticato acceso, è quella, l'Asturia. Vabbè, dai, interessante che sia andata bene. Carlo, eccoci. Stai lavorando, stai facendo qualcosa? Stavo controllando questi cavi, mi sa che c'è uno spezzone di questi, era quello che stava dando problemi. Ma come mai se con uno andava bene e con l'altro no, è lo spezzone? Ma mi sembra strano. Vai, controlla col tester, vediamo un po' cosa può essere. Perché è strano che uno funzionasse e l'altro no. cose. Grazie. Grazie. E beh, se uno va in corto e l'altro non è in corto, no? Cioè, una discesa è. Una discesa, un baracchino è un baracchino. Se uno va in corto e l'altro non va in corto, chi è che c'è? Logicamente. È probabile. Vabbè, comunque. E stavo pensando adesso nel passaggio del lineare, invece ci sono più cambi, vero? Beh, se fosse stato così sarebbe stato diverso ancora la situazione. Sì, domani già controllo tutto col tester. Adesso ho attaccato il cavo dell'antenna direttamente alla radio e pare che stia andando bene. Adesso il tappa si è usato, cazzo. Sì, sì. Ti fa una bella voce, è la voce tua. Non si capisce nemmeno che sia il cavo. Sì, sì, sì, questo microfono lo devo tenere più lontano, capito? Siccome io ero abituato col mio, lo tenevo più vicino e quindi un po' andava in saturazione. Invece così, tenendolo lontano, dovrebbe essere buono. Vabbè. NC60 ci vuole, boh, non ce n'è per nessuno, io quella via. Lui canto bombava questa cosa. Ma tu hai 440 o no? Ma non me lo ricordo adesso, sì. Cazzo, con l'MC60. Mi chiamato spingeva con la radio. Bella, bella proprio. Infatti. Sto facendo un pensiero, sto facendo. Quando inizio a fare il lavoro di comprarmi la roba. E poi controllo tutto quanto, gli ispezioni, col tessere, vedo quale eliminare, quale rifare, li controllo prima tutti quanti, se sono a posto, dopodiché attacco. Capa, fai bene infatti, così sei con te, sei tranquillo, dai. Perché così in effetti si evita di fare danni. Certo che sì. E poi quelle sono radio che costano, quindi bisogna starci attenti. Kappa. E Antonello che fine ha fatto? Se l'hanno mangiato i pesci. Ehi, attore, la balena se l'ha mangiata come Pinocchio. Ma bacia le volte tu, che ti vai sul canale 5. Ciao Manuel, buonasera. Ciao tu, buonasera a tutti comunque, dai, ascolto. Ciao Manuel. Manuele, buonasera. Buonasera anche a lui. Basso, ma già ti sento, Manuele. Sì, dai, meglio bassi che grandi. Va bene. Riprendi, Antonio. Cappa. Vabbè, lui c'ha l'antennino, c'ha. Però già si fa sentire lo stesso. Manuele, mettiti una boomerang come ho fatto io e che magari va meglio. No. Tenete quei tempi, a parte che non sono uno di boomerang. Abbiamo avuto le antenne, serie, ma adesso basta, finito. Kappa. Vai Gianni. Dai, io vi saluto tutti, dai, devo portare giù il cane. Ci sentiamo, buona serata a tutti, grazie per il questo e buona continuazione. Ciao. Ciao già, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao. Ciao Gianni, alle prossime, a risentirci. A tutti di nuovo. Kappa. E vabbè, se ti abbono la numera esci molto più forte, esci, vabbè che sei a piano terra, quasi. Però la numera esce forte, esce molto migliore dell'antennina. Già lo credo, io ho provato uno e l'altro e c'è una bella differenza, dai, questa diciamo fa il suo e purtroppo anch'io ce l'ho sul balcone e non posso fare di meglio adesso e comunque dai, già è un'ottima antenna per l'uso che se ne può fare. Sì, guarda, se ne metto un po' di palo se esce di fuori, c'è a posto, sei tu. Se non sbaglio, quello che è entrato prima da Nulvi, io non lo sentivo però, se non ho capito male stava usando una boomerang. Ciappa. Solo che magari non aveva troppi watt e quindi usciva, era poco potente, capito? Non l'ho sentito niente io. Ma arrivi a casa libero. Vabbè, Nulvi già è anche vicino. Sicuramente se avessi avuto anche io l'antenna sul tetto già l'avrei preso. Sì, vabbè, non era forte il segnale. Vedi come la situazione. Non lo sentivo prima perché ero... Gabriele, basta! Perché ero squarciato. Avevo squarci, capito? Se no già avrei inteso. Lui avanti, to. Io chiudo che vado a prendermi per fare le pastiglie. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Antonio, Gianni ha chiuso, ciao Emanuele, ciao vabbè, saluto a tutti, ci risentiamo. Ciao Tore Carlo. Già ci sentiamo, alle prossime. Ok, alle prossime. Beh, Antonio, grazie a voi. Antonio, ci sei? A Carlo sono. Di che ci sono, Carlo, già ci sono. E quello Smitter quanto ti segna, oh Carlo? Quando sta arrivando quello Smitter di quella radio? Allora, qua adesso stai arrivando 9.30 con picchi positivi, quasi 9.40. Già va bene, dai. Lo credo che va bene. Oh, Antonio, tanto sono tutti usciti, io adesso mi sa che mi metto in ordine un po' di cose, che ho tutti questi fili in mezzo, inizio a mettere da parte, poi domani me li controllo alla luce del giorno. Mi porto il tester qua e controllo tutto e vedo un po' se, perché Claudio mi ha detto che è buono questo commutatore d'antenna, che ce l'ha anche lui, e in effetti è ben dubbizzanti, l'ho usato sempre, funzionava, e credo che sia proprio un problema di pezzone, capito? E magari da un'altra e magari che un fine sempre stato, può capitare. Vabbè, dai, io faccio un attimo di bianco, Anto, che metto a posto queste cose e poi ci sentiamo dopo, se entra qualcun altro, se no a domani, perché poi è già subito ora di cena che incalza. Ok, dai, ci sentiamo, ciao, avanti Emanuele. Ciao anche a chi era Carlo. È allucinante sul benzino. E la macchina, sì, mi ha cucato fredda, che ma non mi fa canduto. Cioè questo è allucinato, dipendente. Per carità. Poi buco di accattone. Il pugno. A chi è che tira il pugno, Gabriele? Non si fanno. Non la cena. Mamma mia, sono scoglionato, non posso stare. Forse neanche io quello voglio fare, boh. Guarda che oggi mi sono scendato all'otto. Il fratello pure ha preparato un bicchino e ci sono messo. Mamma mia, che esperienza stamattina. No, domani mattina piano, già risico mini beso piano. No. Non mi piaceva che mamma mia. Cazzo, direbbe di dare il secco per regalo all'otto. Sì. No, perché piano. Prepara l'erba, facendo i ciuffi, piano il caso brutto, cioè, capito? Però faccio tu. Questo verso le 7:30 siamo pronti. Si fa la colazione e via. Andare, non c'è lei che lo dice la tua pappella se ti devi mettere. Non la tua pappella, se già andavo in una pappella. Mamma mia, tennis. No, non c'è io, non vi da giù di andare a fare. Cazzo, ma sto per prendere il numero di me in bambole. Io, guarda, io questa verrò qua, neanche non c'ho né stufa né niente, e ne ho due di stufe. Manca a te, giornaggio, a chi freddo non immagino. E vabbè, quando fate freddo, fate freddo, però. Oh, qui io freddo non ne ho. Qui sono due, da quando ci sono, non ho mai acceso stufa. Ma io per freddo. Ma non c'è freddo, io qua freddo non ne ho in casa. Sei come le piccoli. Ma la signora va freddo però. Ah, ne ha freddo, neanche lì. Vabbè, già ci pensi tu a scaldarla. No, ma non lo so, no, qua se non accendi c'è freddo, perché la casa non sarà completata come la tua. Sì, lì lo so, lì anche la mamma a casa verrà ne avrete, buia, per carità. Allora, già lo sai, già. Se non accendi, no, lui. Già lo so com'è lì, quelle case lì, già lo so come sono fatte. Ma come vive la mamma tua? No, io magari, sono tutte e due morti. E chi ce l'ha? Tutti i miei nipote. Ah, l'avete lasciato a lui. Ma cavolo, quando abitavi qua era bello. Cioè, stavi bene, cioè, poi quando ti abitato qua? Qualche anno, no? E dopo, se sono là di chi? Cazzo qualche anno? 53 anni ci sono. Ma perché non è Marco cosa non ti va di lungar duccia a casa? Ero già qua, io. Io sono venuto qui da 8 anni fa. La viva mamma tua? No, mio fratello c'era io e mio fratello, tre miei fratelli, eravamo in tre. Poi è morto il primo, il più piccolo, e poi c'ero io e l'altro più grande di me. Poi alla fine poi me ne volevo stare per i cazzi lì e me ne sono venuto qua. E poi mio fratello è rimasto da solo lì nella casa dei miei. Ma qua questo nel mondo, meno male che è rimasta qualcuno la famiglia. È troppo grande, non ne fai nulla, una casa così non ne fai nulla o... Ma tu, poi era tutta da sistemare, mi volevano belli di là. Ah, abbiamo terra, io mi ricordo, vero? Sì, c'era terra, c'era il giardino, magazzino. Era bella la casa, se usa di fare una casa, si fa una buffona di sì, laggiù. No, tuo nipote è figlio già? No, mio nipote è fidanzato, non è figlio. Tu vuoi rimasciare questo? E meno male, dai. Però sta sistemando, sta quanto, si sta cambiando le finestre, si sta facendo i pavimenti. E era un bel messo a male la casa, dai. Le porte le aveva messe a papo, mio padre, nuove. Però i pavimenti, i muri, troppo umida era la casa. Ah, è bello c'avevo quel giardino, guarda, di lusso. Che bello era quello. Io c'avevo l'antenna lì, nel giardino, per giù. Di lusso era. C'avevo la frutta, la canna da pesca che avevamo fatto con Luca, il giardino. Certo può uscire a voi. E da me ricordo già. A parte che avevo apparecchiature simili pure. Anche quello, quindi io ce l'ho sempre avuto gli apparecchi come si devono. E uscivo da tutte le parti, mi ascoltavo. Vabbè, ma il dato che era accessibile anche, non ce n'era un problema. Volendo te la budico di purichive. Avevamo messo, ma disturbava troppo con l'antenna lì che avevamo fatto. Poi l'ho messa sotto e non disturbava niente. Allora l'ho lasciata lì in giardino. Ho messo 6 metri di palo, gli ho messo. Usciva lo stilo fuori dal tetto, a Puglia. Un palombo. Cazzo! E mi hanno in ogni adulto. Vabbè, come vorrei. Non mi pare che tu avevi... A me fa avevo qualche antenne belle pure. Non mi ricordo se era qua. Forse avevo avuto anche la mantova, forse in qua non lo so però. Ma dove? La tua dolce, quante antenne hai messo? Sì, la giubbocca antenne, c'avevo la mantova 5, c'avevo la Ringo, c'avevo la Grand Prix, cazzo, la giubbocca antenne, la giubbocca un conto, l'antenne la giubbocca. Beh, la mantova 5 è una cosa, Sì, ma era meglio la mantova 1 comunque, molto più... La mantova 5 era un pochettino sorda. No, semmai al contrario. Era più rumorosa la mantova 5. Forse la fanzurda non c'erano stati problemi. Non sento? Non c'erano stati problemi se fosse stata sorda. Cioè, perché riceveva di più. Poi, quando ero su a Milano, c'avevo il dipolo di 45 metri, c'avevo le radiodecametriche, avevo... 440, 140, 450, mi ha avuto di radio. E dove abitavo su a Milano, cazzo, che chiavo di niente, perché ero in zona alta, in Campania, e c'avevo l'Assirio, l'827 dell'Assirio, cazzo, una bomba era, 8 radiali. Ce n'era gente di Milano, sì. E era pieno, camionisti, e poi avevo... C'erano anche amici miei, radiomaturiali, entravo lo stesso a parlare nelle frequenze dove non si poteva entrare. Tramite un amico video entravo lo stesso. Sì, altri tempi. E avevo perso tutto. Non c'è più nulla, anche non mi piace più, no, non ne vale più la pena, quindi di nà. Prima, cazzo, ogni tanto cambiavo antenna, chiamavo radio, ne ho preso un poco di soldi. Radio, cazzo, di 1000, 1500, 2000, c'era anche il PS2000, non so se l'hai conosciuto, della Kenwood. Per esempio, beh, io ho fatto un attimo di bianco, che Vicio mi ha combinato un casino. Mamma mia! Dai, devo andare anche a far mangiare. Ok, ci sentiamo, ciao ciao. Sì, ciao a tutti.